la versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, in questo mercoledì 5 di novembre, 16:36, 30 secondi. Vado subito all'argomento del giorno, che nasce da un cittadino comune, da un ascoltatore, da un amico che stamattina segnala un fatto. Ed è un fatto su cui riflettere, perché ovviamente noi ripetiamo sempre che siamo uno dei paesi, forse il paese più dotato come patrimonio artistico, culturale, museale, archeologico, eccetera, eccetera, che non siamo capaci di metterlo a reddito, per questo scendiamo nelle graduatorie internazionali del turismo, eccetera, eccetera, eccetera. Dopodiché, dopo che ce lo ripetiamo, tanti dibattiti, alati commenti, eccetera, eccetera, il problema è sempre quello, cioè i limiti dello Stato nel sapere gestire davvero queste cose, mettendo a reddito questo enorme patrimonio, con innumerevoli dibattiti fumosi in cui si scambia il mettere a reddito, cioè la capacità di attirare turisti e visitatori, rendere più fruibili i beni, mantenerli meglio, eccetera eccetera, si scambia con l'idea: ah, volete generare profitti per i privati. E quindi tanti, professore Salvatore Settis, che Dio naturalmente dia sempre merito per i suoi enormi meriti, che inalbera le bandiere a nome di tanti funzionari delle sovrintendenze eccetera eccetera, che dicono: fora i cattivi privati, perché pubblico meglio una roba che sta nell'ultimo e più polveroso deposito di un museo, piuttosto che se qualche privato prende un bene, lo mette a reddito, ma ci fa i soldi, il profitto. Mentre noi perdiamo tempo in anni in questi fumosi dibattiti, poi la realtà resta quella che è, cioè che lo Stato non ha la capacità e le risorse nella sua gestione burocratica e nei tagli di risorse, ovviamente, per far funzionare meglio le cose, e siamo sempre punto e da capo. Ma quindi questo è il tema della giornata, ma noi parliamo di una cosa in particolare che stamattina questo cittadino ha segnalato. Io l'ho vista, l'ho rilanciata su Twitter, i social hanno iniziato ad occuparsene, la trovate adesso anche sulla pagina online del Corriere della Sera, ma la cosa migliore è farsela raccontare da lui. Questa cosa è avvenuta questa mattina agli scavi di Pompei, quindi uno degli attrattori e moltiplicatori di turisti e visitatori per la straordinarietà del sito, no? Distrutto nel 79 d.C. dal Vesuvio e a tutt'oggi scavato solo per poco più di un terzo dopo secoli. Ecco, stamattina Giuseppe Milano, che è con noi e che nel frattempo ho appreso essere professore associato del Dipartimento di Chimica e Biologia dell'Università di Salerno, e che ringrazio per questa testimonianza civica, scandalizzato ha reso pubblico quello che ha trovato alla biglietteria degli scavi di Pompei. Buon pomeriggio, professor Milano. Si sente malissimo e spero che si possa spostare. Allora, ecco. Salve, mi sente? Adesso la sento molto meglio. Sì, che cosa è successo? Lei stamattina andava agli scavi perché? Sì, allora le spiego. Il Corriere di Portamari, c'è un turista, non ero turista ma in realtà lavoravo, perché qui abbiamo un ospite di una importante università cinese che è venuto in visita per 3 giorni. Abbiamo dei meeting chiaramente di lavoro, perché abbiamo dei progetti comuni, stiamo prendendo contatto anche con le istituzioni della nostra università per portare questo tipo di legame, insomma, di farlo diventare un po' più ufficiale. Certo. Vabbè, lei, non so spiegare a lei la Cina in questo momento. Esatto. E quindi, avete pensato bene che tra le tante attività poteva interessare. Sono appassionato di archeologia. Ieri mattina sul presto l'ho portato a Pestum, stamattina sul presto, perché l'orario era 8:30, lo porto agli scavi di Pompei. E cosa trovate? Trovo il volantino, che poi è stato ripreso, insomma, dal Corriere della Sera da lei molto gentilmente, che dice: avviso al pubblico, si comunica che il 5, 6, 7 di novembre gli scavi resteranno chiusi al pubblico dalle ore 8:30, di apertura, alle 11, a causa di assemblee sindacali del personale, tradotto in un inglese pessimo, insomma, in cui c'è scritto: visitors are advised that, eccetera eccetera, the excavations will be closed from the public from... Vabbè, la traduzione in effetti era maccaronica, però il problema è che... No, è sbagliato, perché c'era scritto che era chiuso fino alle 11 di sera. Esatto, sì, perché il PM è ovviamente... Adesso io dico che il... Tra l'altro è ancora più grave, perché il post meridiem, sia pure in inglese, è latino, quindi lasciamo perdere. L'inglese glielo glielo passo, però uno che lavora a Pompei forse un po' il latino. Comunque, conclusione, lì c'è scritto: non si entra dalle 8.30 alle 11 per tre giorni di seguito, oggi, domani e dopodomani, per assemblee sindacali. Per tre giorni. Naturalmente, voi lo avete appreso lì, nel senso che non c'è la possibilità di saperlo prima. Ecco. Aia, non si sente di nuovo più, professore. Pronto? Ecco, sì, meglio. Mi è venuto il sospetto perché vedevo queste file enormi alle 9 di mattina, sì. Lì fuori, ho parcheggiato, sono arrivato lì e ho letto questo volantino, insomma, questa notizia. Che ha pensato il suo ospite cinese? Allora, io ho spiegato, ho tradotto, insomma, ho spiegato al mio ospite cinese questa cosa. Vabbè, lui ha iniziato a ridere. E a quel punto, nell'attesa, perché poi abbiamo aspettato varie ore, io mi sono informato sul sistema cinese di uno stato, insomma, socialista comunista, di come funziona i dipendenti dei musei. Sì. Ho chiesto, ad esempio, nella città proibita, ad esempio, no? I dipendenti hanno una minima parte, lui non mi ha saputo valutare, diciamo intorno all'1%, come ho capito, dello stipendio che dipende dagli incassi. Ah, quindi tutto il resto è un salario di risultato. Non so se pensate che se noi proponessimo di fare il 99% della retribuzione pubblica. È un cattivo, sì. Io mi immagino i titoli sui giornali, su alcuni giornali. Se una cosa del genere, una timido 1%, così si parlerebbe del neoliberismo che avanza. Questo viene fatto nella Cina comunista. Un'altra cosa, poi diciamo, l'attesa è stata lunga, lui mi ha spiegato che sullo Yellow Mountain, il Monte Giallo, non so se si dice così in italiano, è stato dato in gestione alla comunità locale, che gestisce privatamente il parco e gli accessi del Monte Giallo, con quindi un meccanismo di gestione privato. Comunque privato, quindi la realtà la è Cina che comunista. Il suo ospite cinese ci ha insegnato che la Cina comunista è molto più avanti anche nell'adozione di criteri privatistici, nella messa a reddito. Ripeto, qui nessuno ipotizza di cedere proprietà di alcunché del patrimonio italiano pubblico, e ci mancherebbe. Però la gestione, la messa a reddito e la manutenzione, trattino, stiamo parlando degli scavi di Pompei, per i quali nel 2012 l'Unione Europea stanziò 105 milioni e noi siamo arrivati all'aprile di quest'anno ad averne speso uno dei 105, con l'Unione Europea che ci è venuta a dire: ce li ridate indietro per favore. Il ministro Franceschini è dovuto andare lì, dire: no, adesso cambiamo tutto, la promessa è di spendere, eccetera eccetera. Però ci sono queste vertenze. Allora, questa è la premessa, e io restituisco col professor Giuseppe Milano, essendo grato a lui come cittadino di aver creato con la fotografia che ha messo sui social l'attenzione su questa cosa. Nel frattempo la sovrintendenza ci avvisa che aveva avvisato con un suo comunicato delle assemblee sindacali del 5, 6 e 7 novembre. Per carità, io non tocco la sovrintendenza, resta però la questione dell'opportunità, perché non intendo minimamente mancare di rispetto alla piena al pieno esercizio dei diritti dei lavoratori degli scavi di Pompei. Stiamo parlando di 129 addetti alla vigilanza degli scavi, più 13 altre risorse umane in sala di regia, cioè 142 lavoratori addetti agli scavi come custodi, con un'età media di 56 anni, perché ovviamente il blocco del turnover e così via. Io non intendo discutere del fatto dell'esercizio dei diritti sindacali. Certo, tre giorni dalle 8.30 alle 11 di seguito uno si crea il punto interrogativo, perché la gente arriva lì e immagina che cosa pensa dell'Italia. Però, dopo aver ringraziato Giuseppe Milano, ovviamente a questo punto il problema è quello di dare voce a un rappresentante, no, dei sindacati. In questo caso abbiamo con noi il segretario della CISL di Pompei, portavoce della RSU, quindi della rappresentanza sindacato unitaria degli scavi di Pompei, Antonio Pepe. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi, Antonio. Buon pomeriggio anche a lei. Senta, la prima cosa, voglio cambiare, invertire un poco da quelli che erano i problemi, a ragionare dalla messa a reddito, che lei parlava prima, e anche il professor Milano. Su questa argomentazione credo che il professor Milano, essendo della zona, deve sapere, cioè saprà sicuramente, che noi siamo aperti 365 giorni l'anno, perché una mattina del 1987, dico bene, 87, dall'87-89, ragionammo sull'argomentazione di tenere aperti gli scali sempre, senza la chiusura settimanale. Noi da allora pratichiamo praticamente l'apertura 365 giorni l'anno, quindi siamo l'unico istituto del Ministero Beni Culturali, almeno lo eravamo fino a qualche tempo fa, adesso si è associato mi sembra pure il Colosseo, sì, e non pratichiamo la chiusura settimanale. Se lei va al Museo Nazionale Archeologico di Napoli, il martedì lo trova chiuso, non c'è dubbio. Non si è capito mai perché, perché noi il ragionamento lo facemmo proprio per mettere a reddito questo bene. Ci abbiamo queste cose, cerchiamo di funzionare come se fossimo dei privati. Quando si dice il privato riesce a fare più soldi, perché per il privato è più semplice, invece c'è meno burocrazia nell'attuazione certo delle cose. Ah, beh, ma da noi, sta dicendo uno dei punti però che viene sempre negato, perché è così. Il problema è che io non vorrei che questa cosa la gestisse il privato, ma che la gestisse il pubblico. Ma perché il pubblico non deve fare le stesse cose che può perché fare? Perché non è capace, ce l'ho appena detto prima, ce lo dicono decenni. Ma io guardi, prima però, adesso, poi arriviamo anche a questo punto, che è la sostanza, anche secondo me. Però io prima le devo chiedere, ma è ovvio che i rappresentanti sindacali e i dipendenti, poi sentiremo tutte le vostre lamentele, so che c'è una questione aperta perché proprio per migliorare la gestione la sovrintendenza pensa a fare una convenzione con dei vigilanti privati, questo preoccupa ovviamente i custodi dipendenti e così via, ma al di là di questo, perché non porsi il problema prima di tre consecutive assemblee sindacali in tre giorni all'inizio nell'orario di apertura? La risposta però chiedo di darmela dopo 60 secondi, perché intanto abbiamo l'informazione sulle strade e poi torniamo con Antonio Pepe della CISL Pompei per dirci, ci hanno pensato prima di fare queste assemblee oppure no? Immagino di sì, e che cosa hanno pensato? Strade intanto. La versione di Oscar. Allora, eccoci qui tornati in diretta. Partiamo da un fatto del giorno di questa mattina segnalato dal professor Giuseppe Milano, che insegna chimica e biologia all'Università di Salerno, del Dipartimento di Chimica e Biologia dell'Università di Salerno, che con un ospite cinese, con un'università della Cina con cui l'Università di Salerno sta tentando di migliorare e stringere rapporti più proficui e fecondi, nel tempo libero, prima di dedicarsi al lavoro, ieri scavi di Pesto, stamattina presto alle 8.30 gli scavi di Pompei, se non che volantino appeso dalle 8.30 alle 11, chiusura per assemblee sindacali oggi, domani e dopodomani. Antonio Pepe, segretario della CISL di Pompei, che dire allora? Allora, innanzitutto un attimo solo, dottor Oscar, perché noi dobbiamo completare i ragionamenti, perché quando il professor Milano diceva sono arrivato alle 8.30 agli scavi di Pompei, anche su questo voglio puntualizzare che siamo gli unici che aprono alle 8.30 alle 9 di mattina. Capito, okay, però che oggi, domani, okay, dopodomani non parlando, aprono. Stiamo parlando che a conti fatti noi andiamo sulle 750 ore di apertura in più all'anno, sì. Questo è un investimento sulla fruibilità. Benissimo. E anche sull'economia. Noi realizziamo la media di 2 milioni e mezzo di incasso all'anno solamente perché non effettuiamo la chiusura settimanale. Detto ciò, andiamo sull'argomentazione che ci ha portato a questo. Premesso che le assemblee servono a dare informazione e a prendere informazione dal personale, noi prima di arrivare alle assemblee cerchiamo sempre di fare ragionamenti con l'amministrazione, anche perché sappiamo bene che le assemblee possono arrecare disagio benché ci sia l'informazione già giorni prima. Ti ho richiamato prima, la sovrintendenza subito ha chiarito. Sì, certo. No, ma è chiarito perché noi siamo anche noi a mandare il comunicato ancora prima dell'amministrazione. Va perché bene. Ci piace però informare resta e non creare disagio. Però io abbiamo poco tempo, quindi ve lo siete posto il problema dei tre giorni consecutivi dalle 8.30 alle 11? Questo è il punto. Ma noi ce lo siamo posti il problema, ma diciamo che forse altri non se lo sono posti, perché noi quando abbiamo messo in piedi queste assemblee non le abbiamo dichiarate stamattina, certo, chiaro. Credo che se l'avessimo fatto insomma alla sua trasmissione lei ci avrebbe chiamato, insomma dice no, ma noi abbiamo disagio con la trasmissione, quindi arriviamo a un ragionamento, ma quali sono i problemi? Cerchiamo di sanarli. No? Lei dice la controparte non vi ascolta. La controparte stanno su una scia dici ce ne faremo una ragione, insomma non è così. Ah, è un po' come Renzi. La ragione non ce la possiamo fare tutti, perché il cinese, al di là che lì fa, hanno, diciamo, non mi piace il ragionamento cinese, hanno dei metodi abbastanza efficaci per convincere, sì, il cinese. No, hanno la soluzione piena a mena. Va bene, va bene, non va è bene. Proprio la stessa cosa, no, democratica. Certo no. Però per un ragionamento reale, io credo che sempre le due parti debbano ragionare, quindi non stiamo parlando che noi vogliamo ragionare di cambiare leggi, ma di diritti che comunque vanno concessi. In questo, altrimenti eliminiamo. Non si discute, ma no, non c'è, ma oh santo Dio, ho detto che la questione non è eliminare il diritto pieno, no, ci mancherebbe, il fissato nei contratti e così via, alle ore di anche assemblee sindacali e così via, di incontro sindacale. Il problema è possibile oggi non avere modalità diverse, più compatibili con il fatto che la gente non è tenuta a sapere, a leggere l'annuncio della sovrintendenza e i vostri comunicati e così via? Cioè, in altre parole, oggi l'assemblea sindacale si deve davvero tenere in quel modo lì come 50 anni fa e non si possono fare consultazioni in altro modo, digitale, Skype, a casa? Davvero non si possono fare? Perché, ti voglio dire, nella vita ordinaria di tutti noi oramai è cambiato questo. Secondo me anche nella forma di consultazione sindacale si potrebbe fare, l'esercizio del diritto resta pieno, tutti consultati, il diritto a non essere d'accordo con la controparte, a chiedere altre cose, per carità di Dio, però santo Dio, tre ore di seguito, in tre giorni di seguito, è questo che non capisco io. Allora, quando noi annunciamo un dato tecnico, quando noi annunciamo le assemblee, le annunciamo per fare informazione, ma sempre che sono precedute da quelle che è l'informazione. Sì. Oggi online, non fosse altro perché noi pratichiamo queste soluzioni moderne, ma senza dimenticare quelle passate, perché poi quello che a noi serve anche quello scontro con l'amministrazione, perché poi per quanto ci riguarda queste cose, noi decliniamo ogni responsabilità all'amministrazione, perché chi non sei, cioè qui non parlavo prima del diritto dell'assemblea sancito quant'altro. Io parlavo di altri diritti di cui hanno i lavoratori e che vanno rispettati. Cioè, quando parliamo di compenso, allora noi quando parliamo di rivendicazioni parliamo anche di soluzioni che vanno a beneficio del turista. Cioè, quando noi ci lamentiamo che c'è un carico di lavoro esagerato, perché lei giustamente ci aveva dei numeri. Ma per questo, infatti, voglio dire, la controparte dice, per esempio, la vigilanza, faccio un contratto con dei privati che la faccio per sgravarvi, e voi siete contrari. Allora, l'amministrazione, uno, non fa un ragionamento sui numeri, due, non fa nemmeno un ragionamento sui parametri, perché io prima di sapere quante persone servono agli scavi di Pompei dovrei capire qual è il parametro di un addetto alla vigilanza come carico di lavoro per garantire la sicurezza e assicurare la fruibilità di quella zona a lui assegnata. Ho capito. Cioè, in altre parole, voi rivendicate il diritto alla codeterminazione degli organici. Io non è che mi metto a dire che non è vostro diritto chiederlo. Io ho l'idea, per esempio, mi scusi, a Ercolano, grazie a una grande convenzione con una fondazione americana, in questo caso la Hewlett Packard, chiunque va a Pompei a Ercolano tocca con mano che cosa? Un grande accordo pluriennale che a quel punto si è visto assicurare flussi di milioni di euro. Tocca con mano la differenza. Io sbaglierò, non è che voglio dire, però io penso che il modello Ercolano è un modello. Poi discutiamo di tutto, però se lo facciamo nell'orario di apertura, riconoscendo tutti i meriti del sito di Pompei più aperto, sbagliamo. Continuate con la 24, appuntamento domani.